Davide partì di là e si mise in salvo nella grotta di Adullam. Quando lo seppero i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre, scesero laggiù da lui. Si radunò intorno a lui chiunque era in strettezze, chiunque aveva un creditore e chiunque aveva la vita amareggiata. Egli diventò loro capo. Erano con lui circa 400 uomini. Poi Davide andò da lì a Mizpa di Moab e disse al re di Moab: «Possa ritirarsi mio padre con mia madre presso di voi fino a che io sappia quello che Dio farà per me». Li presentò al re di Moab, ed essi rimasero con lui tutto il tempo della permanenza di Davide nella fortezza. Il profeta Gad disse a Davide: «Non rimanere nella fortezza, ma inoltrati nella terra di Giuda». Davide partì e si inoltrò nella foresta di Cheret. Saul aveva saputo che Davide era stato scoperto insieme con gli uomini che erano con lui. Saul stava a Gaba, sotto il tamarisco sull'altura, con la sua lancia in mano, e tutti i suoi cortigiani lo attorniavano. Saul disse ai cortigiani che lo assistevano: «Ascoltate, beniaminiti, forse che il figlio di Jesse darà anche a tutti voi campi e vigne, vi costituirà tutti capi di migliaia e capi di centinaia, perché avete fatto congiura tutti quanti contro di me? Non c'è stato uno che mi abbia avvertito quando mio figlio strinse un patto con il figlio di Jesse, e non c'è tra voi uno che si ammali per me e mi avverta che mio figlio ha suscitato il mio servo contro di me per tendermi insidie, come avviene quest'oggi». Rispose Doeg l'idumeo che stava con i cortigiani di Saul: «Ho veduto il figlio di Jesse che è venuto a Nob da Achimelech, figlio di Achitub. Questi ha consultato il Signore per lui, gli ha dato provvigioni e gli ha consegnato pure la spada di Golia, il filisteo». Il re mandò a chiamare il sacerdote Achimelech, figlio di Achitub, e tutta la casa di suo padre, i sacerdoti che erano a Nob. Essi andarono tutti insieme dal re. Disse Saul: «Ascolta dunque, figlio di Achitub». Gli rispose: «Eccomi, o mio signore». Saul gli disse: «Perché avete fatto congiura contro di me, tu e il figlio di Jesse, quando tu gli hai dato pane e spada e hai consultato Dio per lui affinché si levasse contro di me come oppositore, com'è quest'oggi?» Achimelech rispose al re: «Ma tra tutti i tuoi cortigiani chi è come Davide, fedele genero del re, aggregato alla tua guardia, onorato nella tua casa? È oggi che ho cominciato a consultare Dio per lui? Non sia mai. Il re non imputi al suo servo e a tutta la casa di mio padre alcun misfatto, perché il tuo servo non conosceva di tutto ciò né poco né molto». Il re rispose: «Achimelech, certamente morrai, tu e tutta la famiglia di tuo padre». Il re ordinò ai cursori che lo assistevano: «Volgetevi e uccidete i sacerdoti del Signore, perché anch'essi hanno dato la mano a Davide. Essi sapevano che quello stava fuggendo, ma non mi hanno avvertito». Ma i cortigiani del re non vollero stendere la loro mano per colpire i sacerdoti del Signore. Allora il re disse a Doeg: «Volgiti tu e colpisci i sacerdoti». Doeg l'idumeo, lui sì, si volse e colpì i sacerdoti. Uccise in quel giorno 85 uomini che portavano l'efod di lino. Nob, poi, città dei sacerdoti, la passò a fil di spada. Uomini e donne, bambini e lattanti, buoi, asini e pecore. Si salvò un solo figlio di Achimelech, figlio di Achitub, di nome Ebiatar. il quale se ne fuggì al seguito di Davide. E Biatar annunziò a Davide che Saul aveva ucciso i sacerdoti del Signore. Davide disse ad Ebiatar: «Sapevo in quel giorno che Doeg, l'idumeo, lì presente, l'avrebbe certamente riferito a Saul. Mi sono volto io contro la vita di tutti quelli della casa di tuo padre. Rimani con me, non avere paura, perché chi cerca la vita mia cerca la tua. Per questo sarai ben custodito presso di me».